I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Non è stata una bella giornata quella di ieri sulle prospettive economiche, non solo dell'Italia, per carità, ma non è stata una buona giornata per il governo, anche perché è arrivata la critica parziale ma specifica della Corte dei Conti all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente Squittieri, infatti, ha definito un parziale insuccesso la cosiddetta spending review, ossia la revisione della spesa pubblica e riqualificazione della spesa pubblica. L'indice della Corte dei Conti è stato puntato non tanto sull'ammontare dei tagli realizzati, ma sulle modalità di questi tagli. Ha detto infatti testualmente il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squittieri, che il parziale insuccesso è stato dovuto anche per la poca conoscenza delle diverse categorie di spesa e ha posto solo sullo sfondo il tema della qualità del servizio offerto. E quindi un conto, traduciamo noi, è razionalizzare, rendere più efficiente la spesa pubblica, altra cosa è ridurla in maniera generica, con la conseguenza di ridurre anche le prestazioni rese alla collettività. Speriamo che la fase 2 annunciata dal commissario alla spending review Gutgeld porti maggiore attenzione e maggiore finezza, per così dire, nei tagli e nella rimodulazione della spesa, anche se lo stesso presidente della Corte dei Conti ha ricordato nei prossimi anni i margini di risparmio sul lato della spesa pubblica potrebbero rivelarsi molto limitati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. I dati sugli andamenti demografici possono sembrare particolarmente noiosi, ma quando fotografano una situazione drammatica come quella rappresentata oggi dall'Istat, diventano particolarmente meritevoli di attenzione. Nel 2015 le nascite sono state 488.000, 8 per 1000 rispetto ai residenti, però sono 15.000 in meno rispetto al 2014. È il record storico negativo dai tempi dell'Unità d'Italia, proprio così. Avete sentito bene, dall'Unità d'Italia, cioè da oltre 150 anni. Il saldo tra nascite e decessi è negativo per 165.000 unità, anche perché i morti sono stati 653.000, ben 54.000 in più dell'anno precedente. È un altro record questo, purtroppo anch'esso negativo, questa volta rispetto al dopoguerra, con un tasso di mortalità sulla popolazione ormai arrivato al 10,7 per 1000. Se poi si accoppiano questi numeri al dato di invecchiamento della popolazione, la conclusione diventa tremenda. Gli ultra 65 anni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. Erano il 21,7% nel 2014. È chiaro che dobbiamo prendere atto che siamo il secondo paese più vecchio del mondo con una tendenza al peggioramento. Gli immigrati un po' compensano questo trend e nel complesso sono ormai l'8% della popolazione totale, pari a 5 milioni, ma comunque il flusso è in calo. Che in Italia si è ripartita invece l'emigrazione verso l'estero, l'avevamo percepito da tempo. Ora l'Istat ci offre però la fotografia quantitativa. Nel 2015 sono state 100.000 le persone che hanno spostato la loro residenza formale all'estero e sono il 12,4% in più rispetto all'anno prima. Dall'Italia quindi si fugge, anche perché, ed è l'ultima amara sorpresa, è diminuita la speranza di vita. Per gli uomini diventa 80,1 anni, prima era di 80,3, e per le donne di 84,7, in calo rispetto agli 85 del 2014. Da un punto di vista statistico, oggi è davvero una brutta giornata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.